Io conosco te e già sento che appartieni a me, amore. So che il tempo ci avvicinerà per legarci ogni giorno sempre più. Questa poca luce intorno a noi e questa musica, questo viso tuo vicino al mio sembra un miracolo d'amore. Da un minuto io conosco te e già sento che appartieni a me, amore. Questa poca luce intorno a noi e questa musica, questo viso tuo vicino al mio sembra un miracolo d'amore. Da un minuto io conosco te e già sento che appartieni a me.